La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. L'articolo 82 riguarda le commissioni d'inchiesta. Il Parlamento non ha solo potere legislativo, ma il Parlamento ha anche un importante potere di controllo sull'attività del governo e di tutta l'amministrazione. Lo strumento principale di questo controllo sono le commissioni d'inchiesta, ma accanto alle commissioni d'inchiesta abbiamo anche interrogazioni, mozioni, interpellanze che rappresentano tutta l'attività del Parlamento per avere informazioni specifiche sull'attività del governo, su fatti accaduti e soprattutto su quelle che sono le misure che il governo vuole assumere rispetto a determinati fatti. Ma il potere d'inchiesta trova espressione soprattutto con la commissione prevista dall'articolo 82. Infatti, su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può disporre inchieste e le può disporre con i poteri dell'autorità giudiziaria, quindi è un potere molto penetrante e molto forte. È importante ricordare che la commissione d'inchiesta può essere anche monocamerale, anche se in genere le commissioni d'inchiesta sono normalmente bicamerali, cioè composte paritariamente da deputati e senatori. La storia della Repubblica ha avuto commissioni d'inchieste molto significative e molto importanti, perché tutti i principali fatti storici verificatisi in Italia hanno trovato non solo indagini della magistratura, ma anche una commissione d'inchiesta parlamentare per cercare di chiarire gli eventi. Ricordiamo le commissioni d'inchiesta sul caso Moro, sulla P2, su Ustica, su Sindona e, da ultimo, la commissione d'inchiesta sulle banche o ancora la commissione d'inchiesta sulla mafia, la commissione d'inchiesta sul terremoto a Napoli del 1980, che sono le occasioni per il Parlamento di fare chiarezza su questi determinati eventi. Dobbiamo ricordare che il Parlamento ha gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, quindi ha poteri d'inchiesta penetranti e l'unico limite che si può opporre alla commissione d'inchiesta è il segreto di Stato. Ovviamente qui il punto di bilanciamento è molto delicato, perché su determinati casi che vanno a toccare molto da vicino l'essenza dello Stato e il suo funzionamento, pensiamo nella storia proprio alla loggia P2, il segreto di Stato può diventare un limite anche difficoltoso all'accertamento della verità.